Egli mi istruiva e mi diceva: che il tuo cuore accolga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivi. Acquista sapienza, acquista intelligenza, non la dimenticare e non ti allontanare dalle parole della mia bocca. Non l'abbandonare e ti custodirà, amala e ti proteggerà. Inizio di sapienza, acquista la sapienza e con ogni tuo avere acquista l'intelligenza, tienla stretta e ti esalterà, ti glorificherà se tu l'abbracci, metterà sulla tua testa un diadema di grazia, ti circonderà di una corona di splendore. Ascolta, figlio mio, accogli le mie parole e si moltiplicheranno per te gli anni della vita. Nella via della sapienza ti istruisco, ti incammino per i sentieri della rettitudine. Quando camminerai, il tuo passo non sarà impedito. Se correrai, tu non vacillerai. Afferra la disciplina, non l'abbandonare, custodiscila perché è la tua vita. Nel sentiero degli empi non andare e non procedere nella via dei malvagi. Evitala, non ci passare, allontanati da lei e passa oltre. Essi non si addormentano se non hanno fatto il male, svanisce il loro sonno se non hanno fatto inciampare. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino dei violenti. La via dei giusti è come la luce dell'aurora, il cui splendore aumenta fino all'apparir del giorno. La via degli empi, invece, è come l'oscurità. Non sanno in che cosa inciamperanno. Figlio mio, sii attento alle mie parole, tendi il tuo orecchio ai miei detti, non si allontanino dai tuoi occhi, custodiscile dentro al tuo cuore, perché sono vita per chi le trova, per ogni corpo sono guarigione. Con ogni cura custodisci il tuo cuore, perché da lui scorga la vita. Rimuovi da te la falsità della bocca, la deviazione delle labbra allontana da te. I tuoi occhi guardino avanti, i tuoi sguardi siano dritti di fronte a te. Spiana il sentiero al tuo piede, tutte le tue vie siano solide. Non ti voltar né a destra né a sinistra. Rimuovi il tuo piede dal male. Figlio mio, sii attento alla mia sapienza. Al mio insegnamento tendi il tuo orecchio per custodire consigli assennati e le tue labbra conservino la scienza. Veramente le labbra dell'estranea stillano miele, molle più dell'olio è il suo palato, ma la sua fine è amara come assenzio, affilata come spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi raggiungono lo Sheol, non spiana il cammino della vita, i suoi sentieri vacillano, ma non lo sa. E ora, figlio mio, ascoltami, non allontanarti dai detti della mia bocca. Allontana da lei il tuo cammino, non ti avvicinare alla porta della sua casa, perché tu non dia ad altri il tuo splendore, i tuoi anni a uomini spietati, perché non godano gli altri della tua forza, i tuoi guadagni non vadano nella casa di un estraneo, così che alla fine tu ruggisca quando saranno consumati il tuo corpo e la tua carne. Allora tu dirai: oimè, ho odiato la disciplina, il mio cuore ha disprezzato il rimprovero, non ho ascoltato la voce dei miei maestri, ai miei insegnanti non ho teso l'orecchio. Un altro poco e sarei stato al colmo dell'infelicità, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Bevi l'acqua della tua cisterna, gli zampilli del tuo pozzo. Non scorrano fuori le tue fontane né sulle piazze i tuoi ruscelli, siano per te soltanto, non per gli estranei insieme a te. Sia benedetta la tua sorgente, possa tu trovarla gioia nella donna della tua giovinezza, amabile cerbiatta e gazzella deliziosa. I suoi seni ti inebrino in ogni tempo, dal suo amore sia tu sempre attratto. Perché saresti attratto, figlio mio, da un'altra? Stringeresti al seno un'altra donna. Davanti agli occhi del Signore le vie dell'uomo, tutti i suoi sentieri egli perscruta, le sue colpe imprigionano l'empio, dalle funi dei suoi peccati è preso. Egli morrà perché senza disciplina, per l'eccesso della sua stoltezza perirà.

E ora, figli, ascoltatemi. Felici quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'ammonimento e siate saggi, non lo trascurate. Felice l'uomo che mi ascolta, vegliando alle mie porte ogni giorno, custodendone i battenti. Sì, chi trova me trova la vita e incontrerà la benevolenza del Signore. Ma chi mi offende distrugge se stesso. Tutti coloro che mi odiano amano la morte. La sapienza ha costruito la sua casa, ha drizzato le sue 7 colonne, ha ucciso i suoi animali, ha attinto il suo vino, ha imbandito la sua tavola, ha inviato le sue ancelle a gridare sulle alture del villaggio: chi è ingenuo corra. Al povero di spirito ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato, abbandonate l'ingenuità e vivrete, camminate nella mia intelligenza. Chi corregge il beffeggiatore ne riceve disprezzo, chi rimprovera l'empio l'oltraggio. Non rimproverare il beffardo, altrimenti ti odia. Tu rimproveri il saggio ed egli ti ama. Dà al saggio e diventerà ancor più saggio. Istruisci il giusto e farà altro acquisto. L'inizio della sapienza è il timore del Signore. La scienza del santo è intelligenza. Sì, per merito mio si moltiplicheranno i tuoi giorni, aumenteranno gli anni della vita. Se sei saggio, lo sei per bene tuo. Se sei stolto, tu solo la sconti. Donna stoltezza è tutta irrequieta, è sempliciotta e senza cervello. Siede alla porta della sua casa, sopra un trono, sulle alture del villaggio, per chiamare chi passa per la via, chi va diritto per la sua strada. Chi è ingenuo corra qua. E al povero di spirito ella dice: le acque furtive sono dolci, il pane segreto è delizioso. E lui non sa che là ci sono le ombre, che agli antri dello Sheol scendono i suoi invitati. Proverbi di Salomone. Un figlio saggio dà gioia al padre, un figlio stolto è la tristezza di sua madre. Non fanno profitto i tesori iniqui, ma la giustizia libera dalla morte. Il Signore non fa morire di fame un giusto, ma reprime l'ingordigia degli empi. Produce indigenza una mano indolente, una mano svelta invece arricchisce. Chi ammassa d'estate è un uomo assennato, ma chi dorme al raccolto è un uomo spregevole. Le benedizioni del Signore sono sul capo del giusto, ma dolore immaturo chiude la bocca degli empi. La memoria del giusto è in benedizione, il nome degli empi invece marcisce. Il saggio di cuore accetta i precetti, lo stolto di labbra va invece in rovina. Chi cammina sincero cammina sicuro, ma chi imbocca le vie tortuose è smascherato. Chi strizza l'occhio procura tristezza, ma chi corregge con forza procura la pace. Sorgente di vita la bocca del giusto, ma la bocca degli empi racchiude la violenza. L'odio procura i litigi, ma tutte le colpe ricopre l'amore. Sulla bocca dell'uomo assennato si trova saggezza, ma il bastone è per la schiena dell'insensato. I saggi fan tesoro della scienza, ma la bocca dello stolto è rovina imminente. I beni del ricco sono la sua roccaforte, ma la rovina dei poveri è la loro indigenza. Il salario del giusto procura la vita, ma il guadagno dell'empio è la rovina. Va verso la vita chi custodisce la disciplina, ma chi trascura la correzione sbanda. Occultano l'odio le labbra giuste, ma chi sparge calunnie è uno stolto. Troppe parole non son senza colpa, ma chi frena la lingua è un uomo prudente. Argento colato è la lingua del giusto, ma il cuore degli empi è cosa da poco. Le labbra del giusto nutron le folle, gli stolti invece muoiono in povertà. La benedizione del Signore arricchisce, ma niente vi aggiunge lo sforzo. Allo stolto dà gioia compiere il male, ma agir con saggezza all'uomo sensato. Ciò che l'empio teme gli arriva, ma ai giusti vien dato ciò che desiderano. Passa l'uragano e l'empio non c'è più. Il giusto invece resta saldo in eterno. Come l'aceto per i denti e il fumo per gli occhi, così è il pigro per chi l'ha inviato. Il timore del Signore aumenta i giorni, ma gli anni degli empi sono accorciati. L'attesa dei giusti è la gioia, ma la speranza degli empi va in fumo. Il Signore è un rifugio per l'onesto, ma una rovina per chi opera il male. Il giusto mai vacillerà, ma gli empi non abiteranno la terra. La bocca del giusto espande sapienza, ma la lingua perversa verrà estirpata. Le labbra del giusto spandono benevolenza, ma la bocca degli empi cose perverse. Una bilancia falsa è un opprobrio per il Signore, un peso esatto invece è il suo diletto. Dove c'è orgoglio c'è anche disonore. Con gli umili invece c'è la saggezza. La loro integrità conduce i giusti, ma la perversità rovina i perfidi. Non giova la ricchezza nel giorno della collera, invece la giustizia libera dalla morte. La giustizia spiana la via all'uomo integro, ma l'empio cade nella sua impietà. La propria giustizia salva gli uomini retti, ma nella loro brama sono presi i perfidi. Con la morte dell'empio finisce la sua speranza, l'attesa dei perversi è annientata. Il giusto è liberato dall'angoscia, l'empio invece vi cade al suo posto. Con la sua bocca l'empio manda in rovina il prossimo, ma con la scienza i giusti si districano. Per il benessere dei giusti la città gioisce, ma per la rovina degli empi manda grida di giubilo. Per la benedizione degli uomini retti una città prospera, ma per la bocca degli empi va in rovina. Chi disprezza il prossimo è povero di senno, l'uomo intelligente invece sa tacere. Chi va gironzolando svela i suoi segreti, ma la persona fidata cela quanto sa. Senza governo un popolo decade. Il benessere dipende dai molti consiglieri. Di certo paga il fio chi garantisce un forestiero, chi rifiuta garanzie invece è al sicuro. Una donna benefica si acquista fama, uomini energici acquistano ricchezza. Arricchisce se stesso l'uomo benevolo, tortura invece il proprio corpo l'uomo crudele. L'empio si affanna per un salario insicuro, ma per chi semina la giustizia la ricompensa è certa. Chi consolida la giustizia è destinato alla vita, ma chi persegue il male è destinato alla morte. Sono abominio del Signore i tortuosi di mente, ma son sua delizia quelli di vita integra. Sicuramente il cattivo non resterà impunito, la stirpe dei giusti invece sarà salva. Anello d'oro al muso di un maiale, una donna bella ma senza cervello. Desiderio dei giusti è solo il bene, ma la speranza degli empi è la rovina. Uno largheggia e arricchisce ancora, uno risparmia oltre misura e solo impoverisce. L'anima benefica sempre si arricchisce e chi innaffia viene innaffiato. Chi accaparra frumento lo maledice il popolo, ma la benedizione è sopra chi lo vende. Chi è sollecito nel bene trova compiacenza, ma chi cerca il male lo raggiunge. Chi confida nella sua ricchezza, costui rovina, ma come germoglio i giusti sbocceranno. Chi mette lo scompiglio in casa propria, il vento è la sua sorte, e lo stolto divien servo del saggio di mente. Il frutto del giusto è l'albero di vita, un conquistator di anime è il saggio. Se il giusto è ricompensato sulla terra, tanto più lo è l'empio e il peccatore. Chi ama la disciplina ama la scienza, ma chi odia il rimprovero è uno stupido. Un buono si attira la compiacenza del Signore, ma l'uomo astuto egli lo condanna. Non si consolida un uomo con l'impietà, ma la radice dei giusti non sarà mai smossa. Una buona moglie è la corona di suo marito, ma come carie nell'ossa è la disonorata.

Ricco nutrimento sono i campi dei poveri, ma c'è chi muore perché privo di senno. Chi risparmia il bastone odia il proprio figlio, chi lo ama prodiga la disciplina. Il giusto mangia fino a saziarsi, il ventre degli empi resta vuoto. La sapienza costruisce la sua casa, la stoltezza con le proprie mani la distrugge. Chi cammina nella sua rettitudine ha il timor di Dio, chi perverte la sua strada lo disprezza. Nella bocca dello stolto c'è un germoglio di superbia, le labbra dei saggi li custodiscono. Se non ci sono buoi, la greppia è vuota, nella forza del giovenco c'è abbondanza di prodotti. Un testimonio verace non mentisce, un falso testimonio esala falsità. Cerca la sapienza l'insolente, ma invano, per l'intelligente la sapienza è cosa facile. Guarda di star lontano dall'insipiente, perché non vi troverai labbra sapienti. Chi è prudente studia bene la sua strada, ma la follia degli stolti è sbandamento. Nelle tende degli insolenti c'è il castigo, nelle case dei giusti c'è la grazia. Conosce il cuore la sua propria amarezza e alla sua gioia non s'associa l'estraneo. La casa degli empi sarà abbattuta, la tenda dei giusti fiorirà. Una strada agli occhi dell'uomo par diritta, all'altra estremità però c'è un trabocchetto. Perfino nel riso il cuore si rattrista e la gioia stessa finisce nell'afflizione. Delle sue vie si sazia il traviato, ma l'uomo buono delle sue azioni. L'ingenuo crede ad ogni parola, chi è prudente veglia sui suoi passi. Il saggio teme e sfugge il male, lo stolto va avanti e sta tranquillo. Chi è pronto all'ira commette ogni stoltezza e l'uomo tenebroso attira l'odio. Gli ingenui hanno in sorte la stoltezza, gli accorti si adornano di scienza. I cattivi si inchineranno ai buoni e gli empi davanti alle porte dei giusti. Il povero è odiato anche dal suo simile, ma gli amici del ricco sono molti. Chi disprezza il suo prossimo fa peccato, ma chi ha pietà dei miseri è beato. Non traviano forse gli artefici del male? Benevolenza e fedeltà a chi fa il bene. In ogni fatica c'è guadagno, solo la parola delle labbra porta all'indigenza. Corona dei saggi è la loro ricchezza, diadema degli stolti è la stoltezza. Un testimonio veritiero salva molti, chi dice menzogne è una rovina. Nel timore del Signore c'è un sicuro rifugio e per i suoi figli egli è riparo. Il timore del Signore è sorgente di vita per sfuggire ai lacci della morte. L'onore del re sta nella moltitudine del popolo. Carenza di popolo è rovina del principe. Chi è lento alla collera ha molta intelligenza. Chi è facile a infiammarsi mostra stoltezza. Vita dei corpi è un cuore benigno. L'invidia è tarlo delle ossa. Chi opprime il povero disonora il suo creatore. Lo glorifica chi ha pietà dell'umile. Dalla sua malizia è rovinato l'empio, ma pur nella sua morte il giusto è fiducioso. Nel cuore intelligente risiede la sapienza, ma non si conoscerà nel seno degli stolti. La giustizia innalza una nazione, onta per i popoli è il peccato. Il re si compiace d'un servo intelligente, la sua collera è per chi lo disonora. Una risposta gentile allontana la collera, una parola pungente fa crescere l'ira. La lingua dei saggi produce la scienza, la bocca degli stolti produce stoltezza. Gli occhi del Signore sono dovunque per osservare buoni e cattivi. Una lingua benevola è un albero di vita, una lingua perversa distrugge lo spirito. Lo stolto disprezza la correzione di suo padre. Chi apprezza il rimprovero è saggio. Nella casa del giusto c'è molta ricchezza. Nei proventi dell'empio c'è insicurezza. Le labbra del giusto diffondono la scienza, ma non così il cuore degli stolti. Il sacrificio degli empi è abominio al Signore. Della preghiera dei retti egli si compiace. Obbrobrio per il Signore è la via del peccatore. Egli ama chi cerca la giustizia. Correzione severa a chi abbandona il sentiero. Chi odia il rimprovero muore. Inferi e abisso sono davanti al Signore, quanto più i cuori degli uomini. L'insolente non ama chi lo ammonisce, egli non vuol frequentare i sapienti. Un cuore gioioso distende la faccia, nella tristezza del cuore si deprime lo spirito. Un cuore intelligente cerca la scienza, la bocca degli stolti si pasce di stoltezza. Tutti i giorni del misero sono cattivi, per un cuore contento è sempre una festa. Un po' di felicità nel timore del Signore val più di un grande tesoro con l'inquietudine. Val più una porzione di legumi dove c'è amore che un bue grasso dove c'è l'odio. Un uomo irascibile suscita contese, l'uomo paziente smorza le liti. La strada del pigro è come una siepe spinosa, il sentiero dei retti è scorrevole. Un figlio sapiente allieta il padre, l'uomo stolto disprezza sua madre. La stoltezza allieta chi è privo di senno, chi è intelligente va dritto per la sua strada. I progetti vanno all'aria per mancanza di discussione, si realizzano quando molti discutono. È una gioia per l'uomo una risposta della sua bocca, una parola a suo tempo, com'è deliziosa. C'è un sentiero di vita in alto per il saggio, perché si allontani dallo Sheol in basso. Il Signore abbatte la casa dei superbi, consolida invece il confine della vedova. Il Signore abomina i disegni malvagi, invece sono pure le parole benevole. Sconvolge la sua casa chi ammassa rapine, chi disprezza i regali avrà la vita. Il cuore del giusto riflette alle sue risposte, la bocca degli empi vomita malvagità. Il Signore sta lontano dagli empi, ascolta invece la preghiera dei giusti. Uno sguardo lucente dà gioia al cuore, una buona notizia ingrassa le ossa. L'orecchio che ascolta l'ammonizione di vita avrà dimora in mezzo ai sapienti. Chi rigetta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore del Signore è saggia disciplina e prima della gloria c'è l'umiltà. All'uomo i progetti del cuore, ma dal Signore la risposta della lingua. Tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma chi esamina gli spiriti è il Signore. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti si realizzeranno. Ogni opera del Signore è fatta per un fine, anche l'empio per il giorno di sventura. Il Signore detesta ogni cuore orgoglioso, sicuramente non sarà impunito. Con la bontà e la fedeltà si espia il peccato e col timor di Dio ci si allontana dal male. Quando il Signore si compiace delle vie di un uomo, gli riconcilia pure i suoi nemici. È meglio poco con giustizia che molti beni senza l'equità. Il cuore dell'uomo decide la sua strada, ma il Signore consolida il suo passo. C'è un oracolo sulle labbra del re, nel giudizio la sua bocca non prevarica. La bilancia e i piatti giusti son del Signore, tutti i pesi del sacco son sua opera. I re detestano fare il male, perché con la giustizia il trono si consolida. Delizia dei re sono le labbra giuste, essi amano chi dice cose rette. L'ira del re è messaggero di morte, ma l'uomo saggio la placa. Nella luce del volto del re c'è la vita, il suo favore è come pioggia primaverile. È meglio possedere sapienza che oro e intelligenza più che argento. La via dei retti è fuggire il male. Chi vuol custodire la sua anima sorveglia la sua strada. Davanti alla rovina c'è l'orgoglio, davanti alla caduta lo spirito altero. Meglio l'umiltà dello spirito coi poveri che una parte della preda con i superbi. Chi sta attento alla parola trova il bene e chi confida nel Signore è beato.

Lo stolto non ama aver la scienza, ma far mostra di avere intelligenza. Quando viene l'empietà, viene anche il disprezzo e con la turpitudine l'obbrobrio. Acque profonde son le parole che pronuncia l'uomo, torrente straripante è la fonte di saggezza. Favorire l'empio non è bene per ostacolare il giusto nel giudizio. Le labbra dello stolto portano alla lite e la sua bocca gli procura i colpi. La bocca dello stolto è la sua rovina, le sue labbra sono un laccio alla sua vita. Le parole del denigratore sono come bocconi deliziosi che scendono fino al fondo delle viscere. Chi si mostra negligente nel lavoro, costui è fratello di chi lo vuol distruggere. Una fortezza è il nome del Signore, a lui ricorre il giusto ed è al sicuro. La fortuna del ricco è la sua fortezza, un alto muro nella sua opinione. Prima della sua rovina si innalza il cuore dell'uomo, prima della gloria c'è l'umiliazione. Chi risponde prima di ascoltare è stoltezza per lui e confusione. Lo spirito dell'uomo sostiene la sua fragilità, lo spirito abbattuto, chi lo rialzerà? Un cuore intelligente acquista conoscenza e l'orecchio dei saggi cerca la scienza. Il dono dell'uomo tutto gli spalanca e alla presenza dei grandi lo conduce. Si dà ragione al primo in una lite, ma viene il suo avversario e lo contesta. La sorte mette fine alle contese e tra i potenti dà una decisione. Un fratello aiutato da un fratello è come una fortezza, gli amici come il catenaccio di un castello. Col lavoro della bocca si sazia lo stomaco dell'uomo, col frutto delle sue labbra si soddisfa. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi ne sa fare uso ne assaggerà il frutto. Chi ha trovato una sposa ha trovato un tesoro, ha ottenuto una grazia dal Signore. Il povero parla supplicando, il ricco invece risponde con durezza. Ci sono amici che mandano in rovina, ma c'è l'amico più caro di un fratello. Val più un povero di condotta onesta che un ricco dalle labbra tortuose. Senza scienza neppur l'impegno è buono, e chi affretta il passo sbaglia via. La stoltezza dell'uomo rovina la sua strada, contro il Signore si irrita il suo cuore. La ricchezza moltiplica gli amici, ma l'infelice è sfuggito dal suo amico. Un testimonio falso non resterà impunito, chi dice menzogne non se la scamperà. Molti adulano la faccia del potente, ognuno vuol farsi amico di chi può. Tutti i fratelli del povero lo odiano, ancor più gli amici si allontanano da lui, cerca di far discorsi, ma essi non ci sono. Chi possiede un cuore è amico di se stesso, chi custodisce l'intelligenza troverà fortuna. Un testimonio falso non rimarrà impunito, chi dice le menzogne perirà. Non s'addice allo stolto vita agiata, ancor meno a uno schiavo comandare ai capi. Il buon senso di un uomo trattiene la sua ira, la sua gloria è passar sopra la colpa. Come il ruggito del leone è l'ira del re, ma come la rugiada sopra l'erba il suo favore. Un disastro per suo padre è un figlio stolto, stillicidio senza fine, una moglie litigiosa. La casa e la ricchezza si ereditano dagli avi, ma è dono del Signore una moglie intelligente. La pigrizia fa cadere nel torpore e un uomo sfaticato patirà la fame. Chi osserva il precetto custodisce la sua vita, ma chi disprezza la parola morirà. Chi ha pietà del misero fa credito al Signore, gli renderà la sua mercede. Correggi tuo figlio perché c'è la speranza, ma non trascendere fino ad ammazzarlo. Chi è grande nell'ira ne subisce la pena, se lo risparmi gliene aggiungi ancora. Ascolta il consiglio e accogli il rimprovero affinché tu arrivi ad essere saggio. Molti progetti sono nel cuor dell'uomo, ma il disegno del Signore si realizza. Ciò che si desidera dall'uomo è la bontà e val più un povero che un bugiardo. Il timore del Signore porta alla vita. L'uomo dimora sazio e il male non lo tocca. Tuffa il pigro, la sua mano, nel piatto, ma non riesce a portarla alla bocca. Colpisci l'insensato e l'ingenuo si ravvede. Riprendi l'intelligente e intende la ragione. Chi insulta il padre e fa fuggir la madre è un figlio spudorato e turpe. Cessa, figlio mio, di ascoltare l'istruzione e ti allontanerai dalle parole della scienza. Un testimonio malvagio si beffa della giustizia, la bocca degli empi divora l'iniquità. Per gli insensati stan pronti i castighi, le botte per il dorso degli stolti. Il vino è un beffardo, il liquore è un insolente, chi vi si attacca non può essere saggio. Come il ruggito del leone e l'ira del re, chi la eccita fa del male a se stesso. È gloria per ognuno evitar le risse, ma ogni stolto vi si getta a capofitto. Alla stagione nuova il pigro non lavora, al tempo della messe cercherà, ma invano. Acqua profonda è il consiglio nel cuore dell'uomo, l'uomo intelligente vi saprà attingere. Molti uomini proclamano la loro bontà, ma l'uomo fedele chi lo troverà? Il giusto cammina nella sua integrità, beati i suoi figli dopo lui. Un re che siede sopra un trono di giustizia disperde con lo sguardo ogni malvagio. Chi può dire, ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? Peso diverso da peso, efa diversa da efa, tutte e due sono abominate dal Signore. Anche il ragazzo fa conoscere dai suoi atti se la sua condotta è pura e retta. L'orecchio che intende e l'occhio che vede, il Signore li ha fatti tutte e due. Non amare il sonno per non diventar povero, apri i tuoi occhi e saziati di pane. È cattivo, dice il compratore, ma quando se n'è andato si felicita. C'è l'oro e l'abbondanza delle perle, ma ornamento prezioso son le labbra dotte. Prendi la sua veste, l'ha impegnata per uno straniero, per gli sconosciuti tienla in pegno. Dolce è per l'uomo il cibo della frode, ma dopo la sua bocca è piena di renella. Consolida i progetti col consiglio, con piani ben precisi fa la guerra. Rivela i segreti chi sparla facilmente, con chi tien le labbra aperte non aver contatti. Chi maledice suo padre e sua madre, la sua luce si spegnerà come quando fa buio. L'eredità acquistata in fretta all'inizio non sarà benedetta alla sua fine. Non dire, renderò male per male, spera nel Signore e Lui ti salverà. Peso diverso da peso è un obbrobrio per il Signore e le bilance false non son buone. Dal Signore sono ordinati i passi dell'uomo, come può dunque l'uomo conoscer la sua via? È un laccio per l'uomo dire in fretta cosa sacra, e dopo fatto il voto, ripensarci. Disperde gli empi un re sapiente, rotola su di loro il rullo. Lampada del Signore è lo spirito dell'uomo che scruta fino al fondo del suo essere. Bontà e fedeltà vegliano il re, nella giustizia si consolida il suo trono. Corona dei giovani è il loro vigore, ornamento dei vecchi è la canizie. Le ferite sanguinanti sono rimedio contro il male, i colpi lo sono dell'intimo dell'animo. Simile a corsi d'acqua è il cuore del re in mano del Signore, a tutto ciò che vuole egli lo inclina. Ogni strada dell'uomo è retta agli occhi suoi, ma colui che pesa i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità dal Signore è preferito al sacrificio. Occhi alteri e cuore gonfio, lampada dei malvagi è il peccato. I progetti dell'uomo abile conducono all'abbondanza, ma chi si affretta certamente va in rovina. Fare fortuna con una lingua bugiarda è vanità fugace di chi cerca la morte. La violenza degli empi li porta via lontano, perché ricusano di agire onestamente. Tortuosa è la via dell'uomo criminale, ma chi è puro agisce rettamente. è meglio abitar sotto l'angolo di un tetto che in una grande casa con una donna litigiosa. L'anima dell'empio desidera il male, non trova grazia ai suoi occhi il suo vicino. Quando il beffardo è castigato, diviene saggio il semplice, quando il saggio è istruito, egli accoglie la scienza. Il giusto osserva la casa dell'empio, egli precipita gli empi nella disgrazia. Chi chiude l'orecchio al grido del povero quando lui chiama, non riceve risposta. Un dono fatto in segreto placa l'ira e un regalo sotto mano il violento furore. È gioia per il giusto operare l'equità, ma la distruzione è per chi fa il male. L'uomo che devia dal sentiero della prudenza dimorerà nell'assemblea delle ombre. Sarà indigente chi ama il piacere, chi ama il vino e l'oblio non si arricchirà. Riscatto per il giusto è l'uomo empio, al posto degli onesti c'è il ribelle. È meglio abitare in un deserto che con una donna litigiosa e amara. Tesoro prezioso e olio son nella casa del saggio, ma l'uomo stolto li divora. Chi persegue giustizia e bontà troverà vita e gloria. Il sapiente scala una città agguerrita e si impossessa della forza in cui confida. Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua preserva se stesso dalle angosce. Orgoglioso, superbo, ha nome il beffardo, uno che opera con orgoglio smisurato. Il desiderio uccide l'ignavo perché le sue mani rifiutano l'agire. L'empio continua sempre a volere, il giusto invece presta e mai rifiuta. Il sacrificio degli empi è un abominio, quanto più se si offre per delitti. Un falso testimonio perirà, ma chi ascolta parlerà per sempre. L'uomo empio assume aria di importanza, l'uomo retto consolida la sua strada. Non c'è sapienza, né intelligenza, né consiglio che si oppongano al Signore. Si equipaggia il cavallo per il giorno della lotta, ma al Signore appartiene la salvezza. Un nome famoso val più di molta ricchezza e la reputazione più dell'argento e l'oro. Il ricco e il povero si incontrano insieme, il Signore li ha fatti entrambi. L'uomo assennato vede la disgrazia e si mette al riparo. I semplici vi passano accanto e ci cascano. Frutto dell'umiltà è il timor del Signore, la ricchezza, la gloria e la vita. Spine e lacci sulla strada del perverso, chi ha cura di sé ne sta lontano. Istruisci il giovane sulla via da seguire, anche da vecchio non se ne allontanerà. Il ricco domina sui poveri e il debitore è schiavo del creditore. Chi semina iniquità raccoglie disgrazia e la verga della sua collera colpisce lui stesso. L'occhio benevolo sarà benedetto perché ha dato del suo pane al povero. Scaccia il beffardo e la discordia se ne andrà e cesseranno lite e insulto. Chi ama la purezza di cuore e ha la grazia sulle labbra, il re è suo amico. Gli occhi del Signore proteggono la scienza, ma egli confonde le parole del bugiardo. Dice il pigro: c'è il leone fuori, sulla strada sarò sbranato. Fossa profonda è la bocca della donna altrui, colui che il Signore riprova vi cadrà. La stoltezza è legata al cuor del giovane, la verga del castigo lo allontana da lei. Chi opprime il povero lo fa ricco, chi dà al ricco solamente impoverisce. Tendi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti. Applica il tuo cuore perché tu li comprenda. Son deliziosi se li custodisci nel tuo seno, se resteranno insieme sopra le tue labbra. Affinché sia il Signore la tua fiducia, voglio istruirti oggi intorno alla tua via. Non ho scritto per te 30 parole riguardanti consigli e conoscenza perché tu possa far conoscere la verità, rispondere a coloro che ti interrogano? Non spogliare il povero perché è povero e non opprimere alla porta l'infelice

Con la pazienza si placa un principe e una lingua delicata spezza le ossa. Hai trovato il miele, mangiane il necessario, perché tu non ti impinzi e debba vomitarlo. Trattieni il piede dalla casa del tuo prossimo, che non si stufi di te e ti disprezzi. Mazza, spada, freccia appuntita, l'uomo che testimonia il falso contro il prossimo. Dente cariato e piede sciancato è il traditore nel giorno dell'angustia, chi toglie il mantello in un giorno di freddo. Aceto in una piaga è cantare canzoni a un cuore afflitto. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, e se ha sete, dagli da bere. Così tu ammassi carboni sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. La tramontana genera la pioggia, la faccia irritata, una lingua indiscreta. È meglio abitare sotto l'angolo di un tetto che con una donna litigiosa in una stessa casa. Acqua fresca per una gola assetata, una buona notizia da una terra lontana. Una sorgente torbida e una fontana inquinata è il giusto che tentenna davanti all'empio. Mangiare troppo miele non è bene, risparmia dunque parole lusinghiere. Una città aperta senza mura, l'uomo che non sa dominare il proprio spirito. Come la neve all'estate e come la pioggia alla messe, così disdice allo stolto la gloria. Come il passero svolazza, come la rondine vola via, così la maledizione senza motivo non ha effetto. Briglia al cavallo, freno all'asino e bastone per il dorso degli stolti. Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, altrimenti rassomigli a lui pure tu. Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, perché non si creda di esser saggio. Si mutila i piedi, beve la violenza chi invia un messaggio per mezzo di uno stolto. Vacillano le ginocchia dello sciancato e il proverbio sulla bocca degli stolti. Come uno che mette una pietra nella fionda, così è chi dà gloria allo stolto. Una spina cresce nella mano dell'ubriacone, il proverbio nella bocca degli stolti. Un arciere che ferisce ogni passante è colui che ingaggia uno stolto. Come un cane ritorna al suo vomito, lo stolto ripete la sua stoltezza. Vedi uno che si crede di essere saggio? C'è da sperar più dallo stolto che da lui. Dice il pigro: c'è una fiera nella strada, un leone è nelle vie. La porta gira sul suo cardine e il pigro sul suo letto. Allunga il pigro la sua mano al piatto, ma fa fatica a portarla alla sua bocca. Il pigro si reputa più saggio di sette che rispondono con senno. Come chi prende per la coda il can che passa e chi si impiccia di una lite altrui. Come colui che per fare il pazzo tira giavellotti, frecce e morte, così è colui che mente al suo prossimo e dice: «Non mi posso divertire?» Finisce la legna, il fuoco si spegne, non c'è denigratore, la collera si placa. Carbone sulle braci e legna sopra il fuoco, è l'uomo rissoso che attizza sempre liti. Le parole del denigratore son cibi deliziosi che scendono fino al fondo delle viscere. Argento scurioso spalmato sulla creta, labbra ardenti e cuore malvagio. Chi odia si maschera con le sue labbra, ma cova nel suo intimo l'inganno. Se aggrazia la sua voce, non gli credere, perché ci son sette obbrobri nel suo cuore. Può nascondersi l'odio con la dissimulazione, ma la sua malizia si svelerà nell'assemblea. Chi scava una fossa ci cade, e una pietra ricade su chi la rotola. Una lingua bugiarda odia chi ferisce, e una bocca sdolcinata produce la rovina. Non ti lodare per domani, perché non sai che cosa porterà l'oggi. Ti lodi un altro, ma non la tua bocca, un estraneo, non le tue labbra. Cosa grave è la pietra e un peso la sabbia ma l'ira dello stolto pesa più di tutte e due. Il furore è crudele e l'ira è impetuosa, ma chi può sopportare la gelosia? Meglio una correzione aperta che un amore nascosto. Sono sincere le piaghe d'un amico, sono inganni i baci d'un nemico. Gola sazia disprezza il miele, gola affamata trova dolce anche l'amaro. Come il passero che erra lontano dal nido, così l'uomo che erra lontano dal suo paese. L'olio e il profumo rallegrano il cuore e la dolcezza di un amico consola l'anima. Non abbandonare il tuo amico e l'amico di tuo padre e non entrare in casa di tuo fratello nel giorno della tua tristezza. È meglio un amico vicino che un fratello lontano. Sii saggio, mio figlio, e rallegra il mio cuore sicché possa rispondere a chi mi oltraggia. Il prudente vede la sventura e si nasconde. I semplici ci passan vicino e ne pagano il fio. Prendi la sua veste, l'ha impegnata per uno straniero, per degli sconosciuti, che è la impegno. Chi benedice il suo prossimo ad alta voce fin dall'alba, gli verrà contato come maledizione. Goccia continua in giorno di pioggia e donna litigiosa s'assomigliano. Chi vuol calmarla vuol far tacere il vento e raccogliere l'olio con la destra. Il ferro col ferro si lima e l'uomo affina le maniere del suo prossimo. Chi ha cura del suo fico ne mangia i frutti, chi veglia sul suo padrone sarà onorato. Come l'acqua rimanda il volto al volto, così il cuore rivela l'uomo all'uomo. Inferi e abisso mai si saziano, gli occhi dell'uomo sono insaziabili. Il crogiuolo è per l'argento e il forno per l'oro, così per l'uomo è la sua reputazione. Se tu pestassi lo stolto in un mortaio, in mezzo ai chicchi con un pestello, non staccheresti da lui la sua stoltezza. Guarda bene allo stato del tuo gregge, fai attenzione agli armenti, perché la ricchezza non è eterna e un diadema non dura all'infinito. Spunta l'erba, appare il germe e si raccoglie il foraggio sopra i monti. Ci siano agnelli per vestirti e montoni come prezzo di un campo, abbondanza di latte delle capre come cibo per la tua casa e per la vita delle tue ancelle. L'empio fugge anche se non c'è chi li insegue. Il giusto, come un giovane leone, sta tranquillo. Quando un paese è in subbuglio, molti sono i principi. Con un uomo intelligente e saggio, a lungo resta stabile. Un uomo empio che opprime i poveri, acquazzone che devasta e fa mancare il pane. Chi trasgredisce la legge esalta l'empio, chi osserva la legge è in lotta contro di lui. I malvagi non comprendono l'equità, chi cerca il Signore comprende tutto. Val più un povero che vive onestamente che uno dalle vie tortuose benché ricco. Chi osserva la legge è un figlio intelligente, chi frequenta i libertini disonora il padre. Chi aumenta la ricchezza con l'usura e l'interesse l'ammassa per chi ha pietà dei poveri. Chi gira l'orecchio per non sentir la legge, anche la sua preghiera è ripudiata. Chi svia i retti in una via malvagia cadrà nella sua fossa. I retti possederanno la felicità. Si crede saggio uno perché è ricco, ma il povero che ha senno lo smaschera. Quando prevalgono i giusti c'è molta allegria, quando si levano gli empi ognuno s'allontana. Chi nasconde le sue colpe non avrà successo, chi le confessa e le fugge avrà misericordia. Beato l'uomo che ha sempre timore, chi indurisce il cuore cade nella sventura. Leone ruggente e orso affamato, l'empio che domina sopra la gente povera. Un principe privo di intelligenza moltiplica i balzelli, ma chi odia il lucro prolunga la sua vita. Un uomo che è inseguito per un omicidio fuggirà fino alla tomba, non lo trattenete. Chi si comporta onestamente sarà salvo,